English Bit di Giulia Crivelli. Trouble. Trouble hiding under the hood. Il New York Times titolava così un articolo apparso qualche giorno fa sul settore auto, che per una volta non parlava solo del caso Volkswagen, oggetto ovviamente di molti altri approfondimenti. La parola che ci interessa è il sostantivo trouble, che significa guaio, difficoltà, fastidio, problema. In inglese viene usato quasi sempre al singolare, mentre in italiano preferiamo il plurale. Il titolo dell'articolo significa quindi: sotto il cofano dell'auto si nascondono dei problemi. Un'alternativa a trouble hiding è trouble brewing, che però ha una sfumatura diversa. In Italia sono mesi che potremmo dire, ad esempio, trouble brewing in Rome, problemi in vista per Roma. Tra i tanti usi idiomatici segnaliamo anche to cause trouble, dare fastidio, creare problemi, e to be in trouble, essere nei guai, ma anche essere incinta. Poi c'è il verbo usato sia all'attivo sia al passivo. May I trouble you to shut the door? Posso disturbarti per chiudere la porta? Letteralmente, anche se in italiano forse diremmo posso chiederti di chiudere la porta? Un altro esempio è don't trouble her with petty complaints. Non disturbarla con le tue sciocche critiche. Per quanto riguarda l'uso passivo, si può dire to be troubled by arthritis, essere afflitti dall'artrite o da qualsiasi altra malattia, oppure a heavy gale troubled the ocean waters, un forte vento disturbava le acque dell'oceano. Un accenno infine a hood, che significa, come abbiamo detto, cofano di un'auto, ma anche cappuccio. Una hooded sweatshirt è una felpa con cappuccio. Per tornare all'articolo del Times e a un passaggio sul caso Volkswagen, segnalo la frase «The German automaker got away with this trick for years». L'azienda tedesca l'ha fatta franca per anni con questo trucco. Il phrasal verb qui è «to get away with something», che si può usare per crimini e misfatti di ogni gravità, anche lieve. «To get away with murder», farla franca dopo un omicidio, ma anche to get away with cheating on a diet, farla franca per uno sgarro alla dieta.